La signora Thornton e Fanny erano in salotto, quest'ultima in preda a un breve momento di euforia mentre la cameriera reggeva un tessuto splendido dopo l'altro per provare l'effetto degli abiti da sposa sotto la luce delle candele. La madre cercava davvero di comprenderla, ma non ci riusciva. Né prova né abito erano di suo gusto e avrebbe desiderato con tutto il cuore che Fanny avesse accettato l'offerta del fratello di farle confezionare il vestito da uno dei più quotati sarti di Londra, senza quelle infinite, seccanti discussioni e quell'irrequieto lavoro di cucito che derivavano dal desiderio di Fanny di scegliere e supervisionare tutto da sola. Il signor Thornton era così lieto di manifestare la sua riconoscente approvazione a qualsiasi uomo giudizioso che poteva essere stato sedotto dalle arie e dalle grazie di second'ordine di Fanny, da mettere a disposizione numerosi mezzi per procurarsi quei lussi, che per lei erano di pari se non di maggiore importanza della scelta dell'innamorato. Quando suo fratello e il signor Bell entrarono, Fanny arrossì e fece uno sciocco sorrisetto e si mosse tutta agitata tra i resti del suo lavoro, in un modo che non poteva non attirare l'attenzione di qualsiasi persona tranne che di Bell. Se doveva proprio pensare a lei, ai suoi rasi e alle sue sete, era per paragonare sia lei che loro alla sofferenza di Margaret, che aveva invece lasciato seduta immobile, con il capo chino e le mani giunte, dentro una stanza in cui c'era un così assoluto silenzio da poter quasi immaginare che il fruscio nelle orecchie fosse provocato dagli spiriti dei morti che fluttuano attorno ai loro cari. Infatti, quando Bell era andato di sopra per la prima volta, la signora Shaw dormiva stesa sul divano e nessun uomo rompeva il silenzio. La signora Thornton diede al signor Bell il suo solito benvenuto, cortese e formale. Non era mai così gentile come quando riceveva gli amici di suo figlio nella casa di suo figlio. E più queste visite erano inaspettate, più facevano onore alla sua ammirevole amministrazione di quella casa piena di comodità. «Come sta la signorina Hale?» chiese lei. «Distrutta, come può essere per quest'ultimo colpo.» «Oh, sono certa che è molto fortunata ad avere un amico come voi.» Vorrei essere il suo unico amico, signora. Suppongo che le mie parole possano sembrare crudeli, ma sono stato sostituito, spodestato dal mio posto di consolatore e consigliere da una zia raffinata e ci sono cugini e simili che la reclamano a Londra come se fosse un cagnolino da salotto di loro proprietà. Lei è troppo debole e disperata per avere una volontà propria. Oh, deve essere davvero debole. Disse la signora Thornton, sottintendendo qualcosa che suo figlio capì molto bene. Ma, continuò la signora, dov'erano questi parenti in tutto quel tempo in cui la signorina Hale sembrava non avere amici, mentre di preoccupazioni ne ha avute certo parecchie? Tuttavia non era così interessata alla risposta per attenderla, uscì dalla stanza per dare disposizioni sulla casa. Vivevano all'estero, qualche diritto su di lei ce l'hanno, devo concederglielo. È stata allevata dalla zia e lei e la cugina sono cresciute come sorelle. La cosa che mi irrita, vedete, è che avevo intenzione di adottarla e sono geloso di queste persone che non sembrano apprezzare il privilegio del loro diritto. Sarebbe diverso se Frederick la rivendicasse. Frederick? Esclamò il signor Thornton. E chi è? Che diritto? E di colpo interruppe quella domanda fatta con foga. Frederick, rispose sorpreso il signor Bell, come non sapete, è suo fratello. Non avete sentito? Non l'ho mai sentito nominare. Dov'è? Cosa fa? Oh, sicuramente vi ho parlato di lui. Appena la famiglia è arrivata a Milton, il figlio che era coinvolto in quell'ammutinamento. Non ho mai sentito parlare di lui prima d'ora. Dove vive? In Spagna, è passibile di arresto nel momento in cui mette piede sul suolo inglese. Povero ragazzo, sarà un grande dolore per lui non poter partecipare al funerale del padre. Dovremo accontentarci del capitano Lennox, dal momento che non credo ci siano altri parenti da chiamare. Spero mi sia consentito di andare. Oh, certamente, ve ne saremo grati. Siete un bravo ragazzo, dopo tutto, Thornton. A Hale piacevate. Proprio l'altro giorno Oxford mi ha parlato di voi. Era dispiaciuto per avervi visto così poco negli ultimi tempi. Vi sono riconoscente per il vostro desiderio di porgergli i vostri omaggi. Ma riguardo a Frederick, non viene mai in Inghilterra? Mai. Non era qui nel periodo in cui è morta la signora Hale? No, beh, io Ero qui allora, non vedevo Hale da tantissimi anni e se ricordate sono venuto. No, era già passato un po' di tempo quando sono venuto io, ma il povero Frederick Hale non era qui in quell'occasione. Che cosa vi ha fatto pensare che lo fosse? Ho visto un giovane che camminava con la signorina Hale un giorno, rispose il signor Thornton, e penso che sia stato più o meno in quel periodo. Oh, sarà stato questo giovane Lennox, il fratello del capitano. È un avvocato e la loro corrispondenza è stata sempre piuttosto costante. Ricordo che Hale mi disse che pensava sarebbe andato a trovarli, sapete, disse Bell, voltandosi e chiudendo un occhio in modo migliore per dare all'altro la possibilità di scrutare con penetrante attenzione il viso del signor Thornton. Una volta ho creduto che voi provaste qualcosa per Margaret. Nessuna risposta, nessun cambiamento di espressione. E anche il povero Hale, non da subito, non fino a quando non gliel'ho messo in testa io. Ho provato ammirazione per la signorina Hale, e chi non la proverebbe? È una bellissima creatura, disse il signor Thornton, messo alle strette dalle domande ostinate del signor Bell. È tutto qua? Sapete parlare di lei con quella moderazione, semplicemente come di una bellissima creatura? Come nient'altro che di qualcosa che entra negli occhi. Oh, davvero speravo che aveste avuto sentimenti abbastanza nobili dentro di voi da omaggiarla con il cuore, anche se sono convinto e di fatto lo so che vi avrebbe rifiutato, l'averla amata anche senza essere ricambiato vi avrebbe innalzato al di sopra di tutti quelli che non l'hanno mai conosciuta per amarla, chiunque si siano. Bellissima creatura, davvero. Ne parlate come parlereste di un cavallo o di un cane? Gli occhi di Thornton erano ardenti come la brace. Signor Bell, disse, prima di parlare così dovreste ricordarvi che non tutti gli uomini si sentono liberi quanto voi di esprimere i propri sentimenti. Cambiamo argomento. Infatti, anche se sentii un tuffo al cuore come per uno squillo di tromba a ogni parola detta da Bell, e anche se sapeva che quel dialogo avrebbe d'ora in avanti creato uno stretto legame tra il pensiero del vecchio professore di Oxford e la cosa più cara al suo cuore, non voleva essere forzato a esprimere ciò che provava per Margaret. Non era un usignolo che doveva mettersi alla prova per superare nel canto qualche altro corteggiatore della donna che onorava e amava con passione. Così passò a quelle noiose questioni di affari che lui e Bell, in quanto affittuario e proprietario, dovevano trattare. Che cos'è quel cumulo di mattoni e calce contro cui siamo andati a sbattere in cortile? C'è qualche riparazione da fare? No, nessuna, grazie. Costruite per vostro conto? Se è così, vi sono riconoscente. Sì, sto costruendo una sala da pranzo, per gli uomini, intendo, i manovali. Oh! Avrei pensato che fosse uno scapolo esigente se questa stanza non vi fosse bastata. Ho conosciuto uno strano tipo e pago la scuola a un paio di bambini a cui è affezionato. Così è successo che un giorno stavo passando vicino a casa sua, sono andato lì solo per un pagamento irrilevante da fare e ho visto quella misera cena bruciacchiata, un pezzo di carne unto e incenerito, che mi ha spinto a riflettere. Tuttavia, soltanto quando i prezzi dei viveri sono aumentati così tanto quest'inverno, mi sono messo a considerare che comprando all'ingrosso e facendo preparare una bella quantità di pasti insieme, si sarebbero potuti risparmiare molti soldi e stare meglio. Quindi ne ho parlato con il mio amico, o il mio nemico, insomma, l'uomo di cui vi dicevo prima, ma ha criticato ogni dettaglio del mio progetto. Di conseguenza l'ho accantonato, sia perché impraticabile, sia perché se ne avessi ordinato la realizzazione avrei interferito con l'indipendenza dei miei operai. Poi, inaspettatamente, Higgins è venuto da me e mi ha presentato con garbo un progetto così simile al mio che avrei potuto reclamarlo. E aveva con sé, tra l'altro, anche le firme di molti compagni di lavoro con i quali aveva parlato. Eh sì, ero leggermente seccato, lo confesso, per il suo comportamento. Ho pensato di mandare a monte tutto, ma mi pareva infantile rinunciare a quello che in passato avevo reputato saggio e ben strutturato solo perché non avevo ricevuto tutti gli onori e l'importanza che si devono all'ideatore. Così, con un certo distacco, ho accettato la parte che mi avevano assegnato, quella di una sorta di amministratore di circolo. Compro i viveri all'ingrosso e fornisco una direttrice domestica o una cuoca che siano adatte. Spero che diate soddisfazione nella vostra nuova veste. Siete un buon giudice per patate e cipolle? Ma suppongo che la signora Thornton vi assista nei vostri acquisti. No, per nulla. rispose il signor Thornton, disapprova l'intero progetto e ora non parliamo più. Ma me la cavo piuttosto bene, ricevendo enormi scorte da Liverpool e acquistando carne fresca dal nostro macellaio di fiducia. Ve lo assicuro, i pasti caldi che prepara la cuoca non sono assolutamente da disprezzare. Assaggiate ogni piatto che viene portato in virtù della vostra carica, spero abbiate una bacchetta. Sono stato accorto. All'inizio mi sono limitato a occuparmi degli acquisti e anche in questo, piuttosto che farlo di mia iniziativa, ho seguito le ordinazioni degli operai, comunicate attraverso la governante. Una volta la carne di manzo era troppo spessa, un'altra quella di montone non era abbastanza grassa. Penso che abbiano visto quanto sto attento a lasciarli liberi, a non intromettermi con le mie idee, così un giorno due o tre operai, e tra di loro c'era il mio amico Higgins, mi hanno chiesto se volevo entrare a mangiare un boccone. Era una giornata pesante, ma ho capito che gli uomini ci sarebbero rimasti male se dopo che avevano fatto il primo passo non gli fossi andato incontro a metà strada. Allora sono entrato ed è stato il pranzo migliore che abbia fatto in vita mia, gliel'ho detto. A quelli che erano seduti vicino a me, intendo, perché non sono un grande oratore, quanto mi era piaciuto. E per un certo periodo, ogni volta che quel piatto particolare si ripresentava nel loro menù, potevo star certo che quegli uomini mi avrebbero salutato con un padrone. Ce l'ho stufato per pranzo oggi, venite? Se non me l'avessero chiesto, non mi sarei mai intromesso e non sarei mai entrato nella mensa senza essere invitato. Ma mi viene da pensare che sarete stato un freno per la conversazione dei vostri ospiti. Non possono insultare i padroni mentre siete lì. Sospetto che si sfoghino nei giorni in cui non c'è lo stufato. Beh, finora ci siamo tenuti lontani da tutte le questioni controverse, ma se una qualsiasi delle vecchie discussioni venisse fuori di nuovo, state certo che farei sentire la mia opinione il giorno dopo lo stufato. Ma voi non li conoscete bene, i vostri concittadini del Darkshire, nonostante voi stesso siate di qui. Hanno un tale senso dell'umorismo e usano delle espressioni così scabrose. Sto iniziando a conoscere meglio alcuni di loro ora, e in mia presenza sono piuttosto spontanei nel parlare. Oh, niente come l'atto del mangiare rende gli uomini uguali. Morire non è nulla in confronto. Il filosofo muore sentenziando. Il fariseo ostentando, l'onesto con umiltà, il povero idiota senza coscienza, come il passerotto che cade a terra. Ma il filosofo e l'idiota, il pubblicano e il fariseo, tutti alla fine dei conti mangiano allo stesso modo, tutti digeriscono bene alla stessa maniera. Ho una teoria per ogni vostra teoria. Boh, a dire il vero, io non ho nessuna teoria, le teorie io le detesto. Vi chiedo scusa. Per mostrarvi quanto sono pentito, perché non accettate una banconota da 10 sterline per i vostri acquisti e date una festa per i poveri? Vi ringrazio, ma preferisco di no. Mi pagano l'affitto per il forno e il cucinino nel retro della fabbrica e ci sarà da pagare anche altro per la nuova sala da pranzo. Non voglio che passi, per carità. Non voglio donazioni. Se la cosa funzionerà, ci saranno persone che verranno a blaterare e a mettere in dubbio la bontà del sistema. La gente avrà da ridire su qualsiasi nuovo progetto, non si può evitarlo. I miei nemici, se ne ho, potrebbero accusare di filantropia il progetto della mensa, ma voi siete un amico e mi aspetto che manterrete il riserbo sul mio esperimento. Al momento non è che una scopa nuova che pulisce abbastanza bene, ma poco alla volta incontreremo un sacco di ostacoli, non c'è dubbio. 43. La partenza di Margaret. La signora Shaw, con tutta la veemenza che era possibile alla sua natura pacata, detestava Milton. Era rumorosa, fumosa, e la povera gente che vedeva per le strade era sporca, e le ricche signore troppo agghindate, e non ne vedeva uno solo di uomo, alto o basso, con gli abiti della misura giusta. Era sicura che Margaret non avrebbe mai riacquistato la forza perduta restando a Milton, e lei stessa temeva uno dei suoi vecchi attacchi nervosi. Margaret doveva tornare a casa con lei e di corsa anche. Con questo spirito, sebbene le sue parole non ne avessero lo stesso impeto, incalzò Margaret fino a quando quest'ultima, debole e stremata e col morale a pezzi, cedette malvolentieri alla promessa che, trascorso il mercoledì, si sarebbe preparata per accompagnare sua zia in città, lasciando a Dixon la responsabilità di provvedere a ogni cosa, pagare i conti, vendere dei mobili e chiudere la casa. Prima di quel mercoledì, quel triste mercoledì in cui signor Hale doveva essere seppellito, lontano da entrambe le case che aveva conosciuto in vita e lontano dalla moglie che riposava da sola in mezzo a estranei, e quest'ultima era la grande preoccupazione di Margaret, poiché pensava che se non avesse ceduto a quello stordimento che l'aveva stravolta completamente durante i primi giorni di lutto, avrebbe potuto predisporre le cose diversamente. Prima di quel mercoledì, Margaret ricevette una lettera da parte del signor Bell. Mia cara Margaret, era mia intenzione fare ritorno a Milton giovedì, ma sfortunatamente risulta essere una delle rare occasioni in cui noi, professori di Plymouth, siamo convocati a espletare vari compiti e io non posso esimermi dal mio dovere. Il capitano Lennox e il signor Thornton sono qui. Il primo sembra un uomo elegante e ben disposto e si è offerto di venire a Milton e di aiutarti nella ricerca di un qualche testamento. Ovviamente non c'è nessun testamento e lo avresti già trovato a quest'ora. Se hai seguito le mie indicazioni. Poi il capitano sostiene che deve riportare te e tua zia a casa e nell'attuale condizione della moglie non vedo come ci si possa aspettare che stia lontano da casa più in là di venerdì. Comunque quella tua Dixon è affidabile e saprà badare a se stessa o a te fino al mio arrivo. Darò tutto in mano al mio procuratore di Milton, se non c'è alcun testamento, dal momento che dubito che questo elegante capitano sia un grande uomo d'affari. Nonostante ciò, i suoi baffi sono splendidi. Ci dovrà essere una vendita, perciò seleziona le cose che desideri conservare o puoi mandare una lista più avanti. Ora ancora due cose e ho finito. Sai, e se non lo sai, tuo padre ne era al corrente che erediterai tutto il mio denaro e le mie proprietà quando morirò. Non che abbia alcuna intenzione di morire per ora, ma ne parlo soltanto per spiegarti cosa succederà. Questi Lennox sembrano tenere molto a te in questo momento. E forse continuerà a essere così, forse no. Pertanto è meglio iniziare con un accordo formale. Dovrai pagarli 250 sterline all'anno fino a quando sia a te che a loro farà piacere vivere insieme. In questo pagamento è inclusa naturalmente Dixon. Stai attenta a non farti convincere a pagare di più per lei, così non sarai sbattuta alla deriva se un giorno il capitano desidererà avere tutta la casa per sé, ma potrai prendere te stessa e le tue 250 sterline e andartene da qualche altra parte, a meno che in realtà io non ti abbia chiesto prima di venire a vivere con me. Poi, quanto ai vestiti, a Dixon, alle spese personali e ai dolciumi, tutte le giovani signore mangiano dolciumi fino a quando con l'età non arriva la saggezza. Prima di decidere, consulterò qualche signora di mia conoscenza e vedrò quanto ti spetterà da parte di tuo padre. Ora, Margaret, sei scappata via prima di aver letto fin qui e ti sei chiesta che diritto ha il vecchio di sistemare per te i tuoi affari in modo così poco cortese? Non dubito che tu l'abbia fatto. Eppure il vecchio un diritto ce l'ha. Ha voluto bene a tuo padre per 35 anni. Gli era accanto il giorno del suo matrimonio. Gli ha chiuso gli occhi quando è morto. Inoltre è il tuo padrino e non potendo fare più di tanto spiritualmente, poiché in fondo è consapevole della tua superiorità in queste cose, sarebbe felice di farti l'umile dono di provvedere a te materialmente. E il povero vecchio non ha nessuno al mondo. Chi c'è là fuori che piangerà la morte di Adam Bell? E tutto il suo cuore è predisposto e rivolto a questa sola cosa, e Margaret non è la ragazza che gli dirà di no. Scrivimi anche soltanto due righe per comunicarmi la tua risposta. Niente, no, grazie. Margaret prese una penna e scarabocchiò frettolosamente. Margaret Hale non è la ragazza che vi dirà di no. Così debole. Non riusciva a pensare a parole diverse e allo stesso tempo usarle la irritava, ma anche questo piccolo sforzo le costava una tale fatica che se avesse saputo trovarne altre per dire che accettava, non sarebbe riuscita a sedersi a scrivere neanche una sillaba. Fu costretta a distendersi di nuovo cercando di non pensare. Piccola mia, quella lettera ti ha infastidita o preoccupata? Oh no. Disse Margaret con un filo di voce. Starò meglio quando la giornata di domani sarà finita. Sono sicura, tesoro, che non starai meglio finché non ti porterò via da quest'area terribile. Come tu abbia fatto a sopportarla per questi 2 anni non riesco a immaginarmelo. E dove potevo andare? Non potevo abbandonare il papà e la mamma. Beh, non affliggerti, mia cara. Suppongo che le cose dovessero andare così. È solo che non avevo idea di come vivevate. La moglie del nostro maggiordomo vive in una casa più bella di questa. Ecco, Certe volte è molto graziosa in estate, zia. Non potete giudicare per com'è in questo momento. Sono stata molto felice qui. E Margaret chiuse gli occhi come per mettere fine alla conversazione. La casa abbondava di comodità adesso, in confronto a prima. Le serate erano fresche e, su indicazione della signora Shaw, i caminetti erano accesi in ogni camera da letto. Viziava Margaret in tutti i modi possibili, acquistando ogni prelibatezza o concedendo ogni piccolo lusso nei quali lei stessa avrebbe cercato conforto. Ma Margaret era indifferente a tutto questo. Oppure, se si imponeva alla sua attenzione, era sempre per ragioni di gratitudine verso sua zia, che si dava tanto da fare per prendersi cura di lei. Era irrequieta, seppure così debole. Per tutto il giorno cercò di non pensare alla cerimonia che si stava svolgendo a Oxford, andando da una stanza all'altra e mettendo da parte, senza alcun entusiasmo, quegli oggetti che voleva conservare. Per volere della signora Shaw, Dixon la seguiva apparentemente per ricevere istruzioni, ma raccomandandosi personalmente che andasse a riposare tranquilla non appena possibile. Questi libri li terrò, Dixon. Tutti gli altri li puoi mandare al signor Bell. Li apprezzerà per il loro genere e per amore di papà. Questo vorrei che lo portassi al signor Thornton dopo che me ne sarò andata. Aspetta, manderò un biglietto. E sedendosi con una certa fretta, come se avesse paura di pensare, scrisse: «Gentile signore, sono sicura che apprezzerete il libro che accompagna queste righe per amore di mio padre, al quale apparteneva. Cordialmente, Margaret Hale». Riprese le sue peregrinazioni per le stanze della casa, riesaminando oggetti che sapeva appartenere alla sua infanzia, con una sorta di amorevole riluttanza a lasciarli, fuori moda, logori e mal ridotti come potevano essere. Tuttavia non parlava quasi più, e il resoconto che fece Dixon alla signora Shaw fu che dubitava che la signorina Hale avesse sentito una parola di quello che lei le aveva detto, anche se le aveva parlato tutto il tempo per distrarla. La conseguenza di essere stata in piedi tutto il giorno fu un eccesso di stanchezza fisica la sera, accompagnato dal miglior riposo notturno che aveva avuto dalla notizia della morte del padre. Il giorno seguente, all'ora di colazione, espresse il desiderio di andare a salutare uno o due amici. La signora Shaw obiettò: «Sono sicura, mia cara, che tu non possa avere delle amicizie qui abbastanza intime da giustificare il fatto che vai a trovarli così presto, prima di essere stata in chiesa per giunta». «Ma oggi è l'unico giorno in cui posso farlo. Se il capitano Lennox arriva questo pomeriggio, e se devo veramente partire domani». «Oh sì, partiremo domani. Sono sempre più convinta che quest'aria non ti faccia bene e ti faccia sembrare così pallida e malata. Inoltre Edith ci aspetta. Forse sta già aspettando me e tu non puoi essere lasciata sola, mia cara, alla tua età, no? No, no. Se devi restituire queste visite, verrò con te. Dixon ci procurerà una carrozza, giusto?» Così la signora Shaw si prese cura di Margaret e portò al seguito la sua cameriera perché si prendesse cura di scialli e cuscini. Il viso di Margaret era troppo triste per illuminarsi in un sorriso di fronte a tutti quei preparativi per fare due visite che lei aveva spesso fatto da sola e a qualsiasi ora del giorno. Aveva quasi paura di confessare che uno dei posti in cui aveva intenzione di andare era a casa di Nicholas Higgins. Tutto quello che poteva fare era sperare che sua zia fosse stata restia a scendere dalla carrozza e a camminare su in salita per il vicolo, mentre la faccia a ogni folata di vento veniva colpita dai panni bagnati messi ad asciugare su corde appese tra le case.